Fiori, sentite il sol, le voci assai mentite, di disoli fedele, che perfido e crudele consacrò la sua fede, il cor amante ad un altro sembiante. Così tradito l'innocente amore, anche sopra di voi, prova di te.